sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.15 e tramonterà alle 20.59. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I tempi sono maturi per arrivare alla sostenibilità della filiera del vino, dalla vigna alla bottiglia sul tavolo del consumatore. Ce lo chiede l'Europa e potrebbe essere un valore aggiunto per la vitivinicoltura della nostra regione. Lo stanno pensando la cantina dei viticoltori friulani La Delizia di Casarsa. Ne parliamo nel servizio di apertura. A seguire la risposta dei produttori biologici alle continue affermazioni che tra i prodotti convenzionali e quello bio non ci sarebbe differenza. Nella rubrica dell'uva e del vino tutte le tecniche e procedure per capire quando i grappoli sono maturi e in quella dell'orto i lavori per il mese di giugno, un mese strategico. Gli asparagi e la loro storia in regione sarà al centro della rubrica dei prodotti tipici e in quella della cucina tecniche e pregi della cottura a bassa temperatura. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. In questi mesi è iniziato un dibattito sulla sostenibilità anche di tutta la filiera del vino, partendo dalla vigna per arrivare fino sulla tavola del consumatore. La cantina di Casarsa, o meglio i viticoltori friulani La Delizia di Casarsa, stanno iniziando tra i primi in Italia questo protocollo. Ne parliamo con il direttore della cantina, Mirko Bellini. Sì, la filiera sostenibile sarà il futuro per l'agricoltura. È richiesta. Quindi tutte le varie fasi di una produzione dell'uva, trasformazione dell'uva in vino, confezionamento del vino, fino alla parte di logistica, il trasporto a raggiungere il cliente, dovrà essere certificata in un protocollo. Cosa intendiamo per sostenibile? La sostenibilità è su tre rami: la sostenibilità sociale, quella economica e soprattutto la sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale, che diventerà il punto cardine delle prossime politiche agricole europee dei prossimi anni. E la sostenibilità in cantina? La sostenibilità in cantina non è nient'altro che quel percorso che noi abbiamo iniziato come azienda di trasformare un'uva che viene fatta in campagna tramite un protocollo e un disciplinare approvato dall'Unione Europea, che è il sistema di produzione nazionale, qualità integrata, e termina con la produzione di un'uva che successivamente sarà trasformata e darà origine a un vino di origine d'uva sostenibile. Da qui in poi tutte le varie fasi, dal confezionamento, dove chi vende i tappi, chi vende le etichette, chi vende le capsule, dovrà dimostrarci, assieme a chi fa il trasporto, quali sono i punti e il loro impegno sulla sostenibilità. È un percorso di filiera importante, l'abbiamo visto e l'abbiamo iniziato a presentare all'estero, soprattutto in alcuni mercati dove sono molto attenti, che rappresenterà un punto di forza della nostra agricoltura, ma sarà un obbligo che il comparto agricolo dovrà assumersi. Sostenibili dunque non solo voi, ma anche tutti i vostri partner di filiera. Corretto, i nostri partner di filiera ci devono dire che cosa fanno per la sostenibilità. Abbiamo fatto un primo incontro, faremo un convegno. E chi fa ad esempio le capsule riutilizza parte di plastica pescata dal mare. Quindi un'attenzione all'ambiente sarà il futuro di questa agricoltura. L'agricoltura che deve sempre di più essere elemento di gestione del territorio, qui ha un ruolo anche noi degli agronomi, che molte volte abbiamo lasciato la gestione del territorio a altri comparti. Credo che il comparto agricolo nelle sue funzioni abbia in primis la gestione dell'ambiente. Sostenibile anche il viaggio del vino, la sua distribuzione, questo è un punto un po' forte. E questa è la parte più importante, il viaggio del vino inteso del trasporto, quindi quello che va su gomma e gli inquinamenti, però basti pensare al lavoro che viene fatto dai trasportatori all'interno della città, dove si stanno già attrezzando di camion elettrici, dopo ci sarà lo smaltimento delle batterie, però un intervento di questo tipo dovrà per forza essere portato avanti. Abbiamo visto che il Covid ha evidenziato quelli che erano i limiti delle nostre aziende, ma anche del sistema economico. Le infrastrutture sono uno dei primi punti nel quale bisogna intervenire. Alla fin fine però potrà tradursi in un valore aggiunto per il nostro vino. non credo che riusciremo ad avere un aumento del prezzo. Credo che sia un obbligo e un valore aggiunto perché l'agricoltura diventa sempre di più elemento di gestione del territorio e non elemento che sfrutta il territorio. La sostenibilità in Friuli Venezia Giulia è una cosa semplice. Noi abbiamo 1.200.000 persone su 800.000 ettari, per cui la tropicalizzazione del territorio è molto molto bassa. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo mantenere quel territorio che abbiamo, non l'abbiamo ancora esasperato togliendo il terreno, facendo le fabbriche, dopo togliere le fabbriche per fare vigneti. Continua certo scetticismo sulla qualità dei prodotti e dell'agricoltura biologica. Oggi Cristina Micheloni riporta mezza dozzina di studi scientifici internazionali che invece li certificano. Avrete sentito le recenti sparate mediatiche di alcuni miopi scienziati sul fatto che tra un prodotto biologico ed uno convenzionale non vi sia differenza alcuna. Ma visto che se non si è scienziati, non si è degni di fiducia e quasi quasi manco di parola, lascio parlare le pubblicazioni di qualche scienziato blasonato e referato, vediamo i fatti. Rassegna pubblicata nel 2017 riporta come generalmente i prodotti biologici siano migliori per il maggior contenuto di vitamine e sostanze antiossidanti, in alcuni acidi grassi benefici, parlo di latte e carne, e per il minor contenuto di cadmio, residui di pesticidi e micotossine. Segnala anche diversi effetti benefici della dieta bio, come minore incidenza di gestosi nelle donne in gravidanza. Vasto studio condotto in Francia su 68.000 persone e della durata di 6 anni. Ha messo in luce come mangiare bio sia strettamente correlato con un minor rischio di obesità del 37%, analogamente per il sovrappeso, e delle patologie correlate come, per dirne una, il diabete di tipo 2. Attenzione però, sembra che ciò non sia collegato solo al fatto che i consumatori bio hanno degli stili di vita più sani, ma anche o soprattutto a due possibili fattori intrinsechi ai cibi. Da un lato il maggior contenuto di omega 3 degli alimenti bio e per contro il maggior contenuto di residui di fitofarmaci nell'ortofrutta e nei cereali convenzionali, che fra le tante ripercussioni negative sono pure obesogeni. Stesso gruppo di ricerca e stessi impressionanti numeri dello studio di popolazione pubblicato però nel 2019. Riporta, per chi mangia regolarmente bio, una significativa riduzione dei pesticidi nelle urine, simili risultati da uno studio americano del 2019. Pubblicazione del 2018, stesso mega studio epidemiologico, un 25% di minor rischio di cancro, diversi tipi di cancro con un meno 34% per il cancro al seno postmenopausa e un meno 76% per i linfomi, con alimentazione bio su base regolare. Infine, per oggi, ulteriore studio pubblicato nel 2021 sul perché vi sia questo effetto positivo dell'alimentazione bio come riduzione del rischio di cancro. L'ipotesi più verosimile è l'effetto coccolea dei fitofarmaci usati in convenzionale, che benché tutti al di sotto come residui dei limiti di legge, agendo in modo sinergico, provocano effetti che la legge non prevede e non norma, ma che il nostro corpo patisce. Argomento supportato da numerose altre ricerche sugli effetti ormonosimili dei pesticidi, anche in quantità infinitesima, come interferenti endocrini, attivi a picogrammi per millilitro. Questo solo guardando all'effetto del mangiare bio, senza mettere sulla bilancia i benefici sulla salute umana di un ambiente più pulito e diversificato, e senza guardare all'impatto sulle generazioni successive, via ambiente e via madre o padre e loro corredo genetico. Sono pochi studi? Beh, certo, ce ne vorrebbero di più e alcuni sono in corso, ma serve tempo, fondi e indipendenza dei ricercatori, merce rara di questi tempi. Quando è matura l'uva, ci sono complesse e sofisticate procedure di laboratorio per accertarlo, ma anche più semplici e abbordabili test che ogni vignaiuolo può adottare, ce li illustra il professor Roberto Zironi. Vediamo oggi quali tecniche e procedure vengono messe in atto per indagare i diversi livelli di maturità. Innanzitutto bisogna pensare a procedere ad un campionamento molto accurato all'interno del nostro vigneto o dei diversi appezzamenti, ad esempio di diverse cultivar. Una volta ottenuto il campione, si procederà ad un'analisi in laboratorio della concentrazione zuccherina, dell'acidità e del pH. Oltre a questa valutazione si potrà quindi poi procedere anche a determinare la maturità fenolica e la maturità aromatica. Per quanto riguarda la maturità fenolica, si fa riferimento ad una metodica messa a punto dal professor Glory dell'Università di Bordeaux alla fine del secolo scorso. E in pratica, oltre a determinare le diverse componenti fenoliche, si fa riferimento anche degli indici di estraibilità, cioè di potenzialità qualitativa del vino ottenuto da quelle uve. Per quanto riguarda la maturità aromatica, esistono nei laboratori delle possibilità analitiche mediante tecniche gas cromatografiche che permettono di determinare quel che si vuole tra i componenti volatili. È chiaro che queste tecniche, sia di maturità fenolica che di maturità aromatica, richiedono tempi lunghi, attrezzature complesse e non sono compatibili con quelle che sono le esigenze di una cantina di trasformazione delle uve. Ecco quindi che si sono diffusi dei metodi più rapidi, dei metodi alla portata di qualsiasi produttore, di qualsiasi laboratorio minimamente attrezzato, e che fanno riferimento fondamentalmente a delle analisi sensoriali che sono state correlate con quelli che sono gli indicatori propri degli indici di Glory o della maturità aromatica. Questo metodo, messo a punto dall'ICEVE, che è un istituto di consulenza francese, trova quindi una larga diffusione anche nella produzione di piccole quantità di prodotti. Poi negli ultimi anni si sono diffusi degli strumenti di controllo dei livelli di maturità fenolica aromatica tramite analisi dell'immagine. Ad esempio, il diverso colore dei semi in maturazione è correlato direttamente con la maturità fenolica del prodotto, oppure il colore delle bacche di uva bianca durante la maturazione è correlato con il potenziale aromatico, la qualità aromatica dei vini ottenuti. Ad esempio, l'applicazione sul Sauvignon Blanc in questa regione ha permesso negli ultimi 10 anni il notevole miglioramento qualitativo delle produzioni di questo vino in questa regione. Il mese di giugno, come ci dice Sara Bosco, è strategico per i lavori in orto, non solo per l'estate, ma si impostano anche le colture autunno-vernine. Si possono continuare i trapianti e semi di molte colture, tra cui zucchino, cetriolo, pomodoro, zucche, bieta, porro, melanzane, peperoni, ma anche alcune leguminose come fagiolo e fagiolino. Queste piantine poi entreranno in produzione in tarda estate, inizio autunno, in quanto necessitano di un determinato tempo in funzione del loro ciclo culturale, specifico per ogni varietà. Si possono però anche iniziare a piantare le prime colture autunnali come e invernali alla fine, che sono finocchi, cavolfiori. Le raccolte possono essere numerose, in quanto se sono state messe a dimora abbastanza presto le piantine, circa all'inizio della primavera, inizieranno a essere pronti anche i primi pomodori, ma anche zucchine e cetrioli. Tutto ciò riguarda sia l'orto in campo, ma anche quello che viene effettuato, che viene predisposto nei vasi sui nostri balconi. Il clima è inoltre molto favorevole anche per le erbe aromatiche. Molte di queste possono già essere a piena maturità e possono essere utilizzate sia fresche che, per non buttare via il prodotto, possono essere essiccate all'ombra su un telo o appese a rametti per utilizzarle successivamente. I sovesci seminati in inverno e inizio primavera sono pronti per essere interrati, in modo poi da poter preparare il terreno e ospitare le colture autunnali e invernali. In conclusione, è importante prestare cura e attenzione alla gestione delle colture messe a dimora, sia in termini di irrigazione, in quanto le temperature si sono alzate notevolmente e si rischia che le piantine vadano in stress, in particolare nel momento del trapianto della semina, sia in termini di lavorazione del terreno e gestione della vegetazione. In quest'ultimo caso, questo è il periodo ottimale per la rincalzatura delle patate, la potatura dei pomodori, ma anche per la gestione delle malerbe, che con queste forti piogge che si sono verificate negli ultimi giorni, sono cresciute e rischiano di andare a danneggiare le nostre colture, in quanto vanno a competere per acqua, luce e nutrienti. Un orto senza o comunque con poche malerbe permette uno sviluppo maggiore delle nostre colture e perciò un raccolto più soddisfacente. La presenza e importanza della coltura dell'asparago in Friuli Venezia Giulia è testimoniata nella storia, come ci scrive oggi Adriano Del Fabbro. Il primo documento friulano in cui si cita l'asparago è legato a un processo. Infatti il 5 agosto del 1647 Don Valentino di Stefano da Forame viene condannato a 50 lire di multa per vari reati, tra i quali c'è anche il furto di asparagi nell'orto dei nobili di Attimis. Durante il pranzo di nozze del conte Carlo Gabrielli, celebrate a Udine nel febbraio del 1727, vennero serviti anche gli sparesi assieme a ostriche e carciofi. Nel maggio del 1773 le monache del monastero di Latisana registrano nel loro libro dei conti la spesa in sparesi per 3,15 lire. L'abate codroipese Domenico Sabadini nel 1826 con una sua rima scrive: degli asparagi robusti che son grati a tutti i gusti e di maggio a ritornar mai non devono mancare. La tipografia Pascati di San Vito al Tagliamento nel 1838 diede alle stampe un opuscoletto di autore anonimo intitolato «Memoria sulla coltivazione degli asparagi e dei loro usi». Tra i documenti sottoscritti nel Trattato di Cormons alla fine della Terza Guerra d'Indipendenza nel 1866 si trova un elenco di prodotti di particolare pregio che comprendeva anche l'asparago bianco di Sant'Andrea di Gorizia. Dall'altro canto gli asparagi sono coltivati già da molto tempo con ottimi risultati sul territorio di Monfalcone che alimenta coi suoi prodotti il mercato di Trieste. Il settimanale L'Amico del Contadino, stampato a San Vito al Tagliamento, si occupa della coltivazione degli asparagi pubblicando due articoli tecnici nel 1847. Nel 1824 il poeta friulano Pietro Zurutti cantava la bontà degli asparagi di Tricesimo, inserendoli nelle sette rarità del Friuli e sorprendendosi della grossezza dei turioni di quella località che aveva ricevuto in dono. Il suo stupore venne poi registrato dall'abate Pirona nel vocabolario friulano del 1928. L'importanza dell'asparagicoltura tricesimana non era sfuggita a Ippolito Nievo, che nella novella La Santa di Arra, pubblicata nel 1855, menziona il contadino Tita che si reca a menare gli asparagi sulla piazza di Udine. Roberto Zottar tesse le lodi della cottura a bassa temperatura e lo fa con il petto di pollo, che solitamente è un pezzo problematico. A molti il petto di pollo intero non piace perché risulta stopaccioso e asciutto, ma ciò è solamente dovuto a una cottura sbagliata. L'ideale sarebbe usare il metodo che attualmente impazza tra gli chef, la cottura CBT, acronimo di cottura a bassa temperatura. È una tecnica di cottura prolungata in sacchetti sottovuoto a temperature più basse rispetto a quelle tradizionali. Da qui deriva l'altro nome francese di questa tecnica, sous vide, cioè sottovuoto. L'obiettivo è di dare alle carni una cottura omogenea con una temperatura che non faccia denaturare le proteine, perché ciò porta poi ad una durezza dei tessuti. Da un punto di vista organolettico, quella più interessante è senz'altro la texture, cioè la consistenza al palato dell'alimento, perché la cottura prolungata con temperature contenute rende le fibre estremamente tenere rispetto alle cotture tradizionali che prevedono tempi ridotti e temperature più alte. La texture diversa si apprezza ad esempio anche nella cottura di un uovo a 62 gradi per 45 minuti. L'albume coagula e il tuorlo rimane cremoso, con sapore e consistenza uniche, difficilmente replicabili con altri metodi di cottura. Tornando al petto di pollo, quindi, se avete l'attrezzatura, cuocetelo sottovuoto per 2 ore alla temperatura di 65 gradi. Se invece non siete così tecnologici, proviamo ad imitare le nostre nonne che, di fatto, facevano una cottura CBT lasciando i tegami ai bordi dello spolert. Strofinate il petto di pollo con uno spicchio d'aglio e qualche erba da griglia. Prendete una padella con il fondo spesso e scaldatela molto bene. Scottate il petto intero con un filo d'olio per 3 minuti per lato, poi abbassate il fuoco al minimo possibile e cuocete coperto per 15 minuti. Fatelo anche con più petti e, raffreddati, conservateli in frigo sottovuoto, così sono sempre pronti. Per accompagnare il piatto, preparate una salsina tritando a piccoli dadini dei pomodori datterini, basilico, erbe aromatiche, capperi, un po' di peperoncino, sale, olio ed una spruzzata di aceto balsamico. Al momento del pranzo, a prescindere da come avete cotto il petto in padella o sous vide, scottatelo con un filo d'olio per pochi minuti in una padella già caldissima fino a fare una crosticina grigliata da ambo i lati. Tagliatelo poi in sbieco a fette sottili e servitelo con la salsa fredda. Gusterete finalmente un petto di pollo morbido e succoso con il piacevole croccantino della crosticina ai bordi. Il fresco della salsa, leggermente piccante, completerà il gusto e lo salerà. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,60 e 25,80 euro al quintale IVA esclusa, mentre il frumento e l'orzo non sono stati quotati in attesa del nuovo raccolto. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,50 euro il quintale. Passando ai bovini da macello, è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,50 e 2,80 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,80 e 2,50. Mercato fermo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con prezzi stazionari. Le quotazioni accertano che i blu belga maschi vengono pagati tra 5,90 e 6,40 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,20, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,30 e 1,50. Invece nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa e i lattonzoli di 30 kg vengono quotati franco partenza a 3,75 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati a 1,49. In aumento le quotazioni del prosciutto di San Daniele con osso, che viene pagato tra 9,05 e 13,95 euro il chilo, quello di Sossato tra 12,05 e 17,35. Domanda confermata con quotazioni deboli per il Montasio 90 giorni, che viene pagato tra 6,30 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. In lieve ripresa invece il prezzo del latte crudo di vacca Franco Stalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine lo ha quotato a 35,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata alla meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Con l'inizio dell'estate meteorologica dal 1 giugno si è osservata ancora variabilità, ma anche notevole presenza di sole su pianura e costa, e si sono ripresentati frequenti rovesci e temporali pomeridiani. Le temperature in pianura hanno già superato i 30 gradi martedì e mercoledì scorso, e la differenza fra i valori medi della terza decade di maggio con la prima decade di giugno è stata di circa 5 gradi. C'è stata quindi una notevole svolta con l'arrivo di temperature decisamente estive. I valori medi nei primi 10 giorni di giugno sono stati già più elevati di circa un grado su gran parte della regione, tranne che nel Tarvisiano e sulla costa, dove sono stati in linea con la norma. L'anticiclone di origine africana ora ha iniziato ad estendersi su gran parte dell'Europa centro-occidentale e garantirà stabilità atmosferica. Dopo una prima risalita delle temperature massime previste per oggi fino a 32-33 gradi in pianura, domani e martedì il temporaneo afflusso di correnti nordorientali più fresche nei bassi strati porterà un lieve calo dei valori massimi, che rimarranno un po' sotto i 30 gradi. Da mercoledì le temperature risaliranno progressivamente, portandosi sopra la media, e probabilmente verso la fine della settimana il caldo diverrà anche più afoso. Avremo giornate decisamente soleggiate, solo sulla zona montana sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità pomeridiana, con bassa probabilità però di locali rovesci o isolati temporali. Sulla costa saranno presenti i venti a regime di brezza, intervallati stasera e domani mattina da un po' di borino o di bora moderata. L'evoluzione del tempo del prossimo fine settimana potrebbe essere caratterizzata da un afflusso di correnti meridionali più umide ed instabili, che provocherebbero caldo molto afoso e temporali sparsi, ma come sempre raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Se prime di San Vit, lis mostis svolin a tor, varin l'estat, pui chialde dal for. Ovvero, se prima del giorno di San Vito, il 15 giugno, volano mosche in giro, avremo l'estate più calda del forno. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.